Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti Sinistro, mondo del balloon, che oggi, sempre in questo periodo che si pone tra due feste civili così importanti quali sono il 25 aprile e il 1 maggio, festa del lavoro, va con questo libro illustrato, il testo di Francesca Parmigiani e le illustrazioni sono Sugar Buglia e il titolo è Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini, edizione Becco Giallo. Le domande sono: a che cosa serve il Parlamento? Di cosa si occupa il governo? Chi fa rispettare le leggi? Che ruolo ha il Presidente della Repubblica? E queste cose vengono spiegate ai bambini con anche esempi molto comprensibili, argomenti peraltro che forse andrebbero spiegati anche a molti adulti. Comunque, Morena Moretti ha intercettato Francesca Parmigiani che ci spiega un po' questa operazione. La terza tappa appunto di un percorso iniziato con i principi fondamentali della Costituzione italiana, con questo terzo libro invece ci spostiamo nella seconda parte della Costituzione, quella dedicata appunto all'organizzazione dello Stato e quindi intanto alla separazione dei poteri e all'organizzazione anche delle funzioni e delle istituzioni statali, materia un po' più astratta, un po' più difficile visto che il libro è comunque pensato per bambini della scuola primaria dai 7-8 fino agli 11 anni. In realtà abbiamo questa volta esteso un pochino la fascia d'età proprio vista la materia più complessa. Ricordiamo però sempre accompagnati, perché probabilmente una lettura fatta bambino di questo libro pure molto accessibile, però probabilmente sarebbe complicata per un bimbo, una bimba. Sì, assolutamente. È suggerita una lettura guidata, infatti appunto intanto si tratta di un albo illustrato, quindi ci sono anche immagini che suggestionano e soprattutto in questo caso rappresentano i luoghi del potere, quindi non è altro questo che un viaggio alla scoperta delle istituzioni italiane. I protagonisti sono gli stessi dei precedenti due lavori, quindi si tratta di una classe che va in gita a Roma, la guida appunto dell'insegnante, la maestra Anna, attraversa il Parlamento, il governo, la sede appunto della Corte di Cassazione e anche di uno degli organi di garanzia, quindi la Corte Costituzionale, proprio per capire intanto che per esercitare i diritti di cui la Costituzione parla nella sua prima parte servono poi le regole, quindi serve questa seconda parte. La parola chiave e un po' il filo rosso che guida appunto la classe è partecipazione, perché che cos'è lo Stato? È un insieme di persone. Lo Stato intanto è formato appunto dal popolo e il popolo deve poter partecipare alla vita pubblica, alla vita politica. Le istituzioni servono a questo, ad organizzare il potere nel rispetto appunto dei limiti fissati dalla Costituzione. Come dicevamo, materia più complessa, però si cerca sempre di utilizzare un linguaggio semplice, accessibile e soprattutto tante immagini, tante metafore, quindi il Parlamento diventa un grande albero con due rami, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, rami che per funzionare però necessitano appunto della linfa e quindi della partecipazione attiva dei cittadini. Come spiegare quel rapporto complesso tra Parlamento e governo che si fonda appunto sulla fiducia del Parlamento appunto al governo? Anche qui l'occasione è quella appunto di un episodio di vita quotidiana della classe. Si è in gita, chiaramente durante la notte i bambini non stanno tranquilli nelle loro camere ma fanno cuscinate, chiacchierano fino a tardi, la mattina dopo l'insegnante li riprende e parte appunto da un vocabolo, fiducia, che nel linguaggio comune ha un significato ben preciso, e da lì però la riflessione si sposta appunto sulla fiducia di cui il governo caricato ha bisogno per poter iniziare appunto appunto a lavorare, a dare attuazione al proprio programma. Una fiducia che non si dà una volta per tutte, ma che va, diciamo così, poi confermata, e quindi un ruolo del Parlamento che è anche di vigilanza rispetto all'operato del governo. Fiducia, ti interrompo, perché questo libro tende ad infondere fiducia nelle istituzioni e a proprio ai ragazzi e ai bambini in epoche, tempi, ormai anni in cui di fiducia ce n'è sempre di meno e dove si va sempre meno a votare. Quindi come far comprendere proprio ai bimbi e alle bimbe, magari anche loro in famiglie dove c'è il problema, magari si sente, che invece la partecipazione, appunto, il voto e la partecipazione alla vita democratica dei cittadini è fondamentale perché poi tutto possa funzionare al meglio. Tu parli anche dei partiti, che anche qui c'è il grande problema della sfiducia nei partiti. Assolutamente, non è semplice. Non è intanto l'elemento però da tenere in considerazione è che ci si rivolge appunto a bambini che quindi non hanno una serie, diciamo, di sovrastrutture culturali, ideologiche, si lavora appunto su un terreno tra virgolette ancora vergine, quindi rispetto al quale è importante, secondo me, partire dalle basi, dalle radici, dai fondamentali, cioè dalla Costituzione. Qual è l'architettura pensata dai padri e dalle madri costituenti e perché è stata pensata così? Quindi il fatto che il potere non debba essere concentrato ma ripartito, il fatto che il nostro sia un sistema che si fonda appunto sul bilanciamento, sull'equilibrio tra i poteri dello Stato, il fatto che ancora una volta la sovranità spetta al popolo e quindi il popolo deve avere un ruolo attivo, i cittadini devono esercitare i diritti e adempiere ai doveri previsti dalla Costituzione. Quindi è chiaro che non possiamo abdicare a questo ruolo, perciò il messaggio che voglio lanciare anche ai più piccoli è quello appunto di un ruolo che deve essere vigile, presente, consapevole, che va esercitato. Quindi se qualcosa non ci piace, la Costituzione ci offre anche gli strumenti per protestare, per cambiare idea attraverso appunto un voto che magari può essere esercitato in maniera diversa, attraverso un controllo, penso appunto all'opinione pubblica, alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà di stampa, al diritto di sciopero. Quindi è necessario, secondo me, che le nuove generazioni siano messe nelle condizioni di conoscere quali sono le possibilità che possono utilizzare per svolgere questo ruolo attivo e quindi anche per cambiare, per trasformare una società che magari non ci soddisfa o delle istituzioni dalle quali sentiamo a volte magari di non essere sufficientemente rappresentati o dalle quali riteniamo che i nostri bisogni non siano sufficientemente interpretati. Piacere, mi presento, sono militanta, il mio laboratorio è aperto a tutte le età, mi hanno chiamato qui per fare una lezione sulla Costituzione, anche se siamo piccoli, non siamo zitti perché vogliono distruggerci per legge e diritti. 9, 19, 139, sono le cose su cui il popolo si muove, l'Italia è una repubblica, è pubblica e di tutti, anche di chi lo dubita, l'Italia è una repubblica. Articolo 1, prezioso più dell'oro, c'è scritto che ognuno un giorno avrà un bel lavoro. Articolo 9, lancia un messaggio, la Repubblica tutela natura e paesaggio. Articolo 11, la bomba butta a terra, per questo l'Italia ripudia la guerra. Articolo 21, bello il 21, poter parlare liberi senza temere nessuno. Articolo 33 e 34, la scuola è di tutti e su questo non baratto. Comandi, comandi e chi vuole comandare, prima deve passare per la Carta Costituzionale. 9, 19, 139, sono le cose su cui il popolo si muove, l'Italia è una repubblica, è pubblica e di tutti, anche di chi lo dubita, l'Italia è una repubblica democratica e la Costituzione a noi ci sta simpatica. Articolo 7, pensi come pensa, l'Italia è sovrana e indipendente dalla Chiesa. Articolo 32, parole argute, la Repubblica cura tutti e tutela la salute. Sapete, per scriverla ci misero 2 anni, nessuno ce la rubi, coi soldi o con gli inganni. 2 anni di riunioni, di grandi e di bambini, perché non torni più tra noi, Benito Mussolini. Bisogna infondere fiducia soprattutto poi anche agli insegnanti. Tu tra l'altro a fine del tuo libro parli proprio della scuola come un organo costituzionale fondamentale. Perché lo ritieni fondamentale, Francesca? Sì, qui ho preso in prestito parole del padre costituente Piero Calamandrei, che in un celebre discorso suggerisce di interpretare la scuola come un organo costituzionale centrale, sebbene quando si pensa agli organi costituzionali immediatamente si sia portati a considerare il Parlamento, ovviamente il governo, la magistratura e magari non la scuola, perché credo che ciò di cui abbiamo bisogno sia davvero di una sorta di rinascita culturale, quindi questo percorso di rinascita un ruolo fondamentale deve averlo quella che è la prima palestra di democrazia, che è appunto la scuola. A scuola si confrontano bambini e bambine che provengono da famiglie diverse, hanno magari culture diverse, credono in religioni diverse, ormai le nostre classi sono appunto multiculturali, multietniche, e quindi quello è un fondamentale ruolo di costruzione della cittadinanza, cioè la scuola deve formare i cittadini e le cittadine di domani, quindi la scuola ha una potenzialità straordinaria, con un compito molto oneroso, quindi va supportata economicamente intanto, e soprattutto bisogna restituire, credo, anche agli insegnanti un ruolo sociale, un riconoscimento davvero più rilevante di quello che di solito viene loro attribuito, perché sembra retorico dirlo, ma hanno nelle loro mani il futuro del paese. Piero Calamandrei diceva: dalla scuola nascono i legislatori, i governanti, i giudici di domani. La scuola è poi un luogo in cui dovrebbero davvero essere abbattute le diseguaglianze, dovrebbe essere appunto un luogo che favorisce la mobilità sociale, quindi ha delle straordinarie potenzialità anche per l'attuazione di quel principio molto citato ma poco applicato, che è contenuto nell'articolo 3 della Costituzione. Quindi io credo molto in questo, credo anche nell'importanza del ritorno dell'educazione civica nelle scuole, se chiaramente questa materia un po' vasta per come è stata in realtà pensata oggi dal legislatore sia ben interpretata appunto, e credo che ci siano tanti insegnanti appassionati, io ne sto incontrando molti anche nei laboratori, nei progetti che sto portando avanti appunto nelle scuole, che davvero stanno facendo un lavoro prezioso. Nel tuo libro c'è un personaggio un po' fuori campo che accompagna questa gita a Roma attraverso le istituzioni, che è un gabbiano che vola su questa classe. E che cosa ci racconti su questo gabbiano, perché l'avete inserito nel libro? Allora, è stata una scelta dell'illustratrice Sugar Buglia, che anche appunto nel precedente libro aveva scelto questa figura del partigiano, precedente libro dedicato appunto alla resistenza spiegata ai bambini, e quindi questa volta, visto che Roma è piena di gabbiani e lei tra l'altro è romana quindi conosce bene la città, ha scelto questo animale guida che accompagna i bambini, un po' come poi elemento di leggerezza, visto che comunque è un libro illustrato, è un libro che vuole essere anche molto calato nella quotidianità, anche nella fantasia appunto dei bambini, e poi comunque è un personaggio che sicuramente è simbolo di libertà, può volare, può infrangere anche, se vogliamo, quei limiti che possiamo incontrare nella nostra vita quotidiana, e quindi questo desiderio anche di un futuro migliore può essere interpretato da questo volatile. Ci sono nel libro insomma questi elementi, dal gabbiano a un altro cameo che ho voluto inserire, la sala delle donne, un capitoletto molto breve, che ho voluto inserire nel libro un po' un elemento quasi magico. Cos'è la sala delle donne? È una sala che esiste poco davvero, conosciuta, devo dire. Poco conosciuta, è vero, anche di recente realizzazione in realtà, si trova a Montecitorio ed è una sala sulle cui pareti sono appesi ritratti di 21 madri costituenti e anche delle prime donne che hanno rivestito ruoli importanti, istituzionali, ed è una sala che viene scoperta non a caso dalle due bambine protagoniste, Milde e Teresa, che capitano lì quasi per caso e iniziano a sentire delle voci che sembrano appunto giungere proprio dalle fotografie, dai ritratti appesi alle pareti, quindi questo elemento magico che insomma, è tipico dei libri per l'infanzia, per l'adolescenza. Queste voci che cosa raccontano? Raccontano storie di donne che hanno sostanzialmente trasformato la vita delle donne grazie al fatto che hanno saputo conquistare diritti nuovi per tutte, e quindi dei racconti che vanno conosciuti, che vanno tramandati non solo di donna in donna, perché poi il capitolo si chiude con un impegno delle bambine a raccontare queste storie importanti anche ai loro compagni. C'è sempre questi nei libri un'attenzione particolare che alla storia raccontata con uno sguardo femminile. Nel libro dedicato alla resistenza c'era appunto un capitolo ovviamente dedicato alle donne partigiane, quindi anche qui ho voluto inserire questo capitolo per segnare un ruolo importante delle donne anche nella vita istituzionale del paese, e un lungo cammino di emancipazione che, come sappiamo, non è ancora concluso. Vorrei essere libero come un uomo appena nato, che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo. orgoglio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo. Un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solo per la sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La seconda parte della trasmissione torna a Patrizia D'Antonio e i suoi blog delle donne con lo zaino. Questa volta Patrizia ci parla di questo fumetto, questa graphic novel, A mani nude, di Leila Silmani, con Clément Aubry, Obromove Edizioni. È la storia di una grande donna nel mondo della medicina e della sanità. La storia che vi raccontiamo oggi è quella di una donna che ha cambiato il volto del Novecento in senso proprio letterale. È una donna straordinaria, è rimasta a lungo però nell'ombra della storia e oggi torna alla luce grazie a un graphic novel di Leila Slimani intitolato A mani nude. I due grandi autori francesi, la scrittrice Leila Slimani, premio Goncourt per il romanzo Ninna Nanna, è autrice tra l'altro di Sesso e bugie, di una grande trilogia sulla storia del Marocco, e l'incontro con il disegnatore Clément Aubry, autore della saga Aya di Iop Mungon, di cui abbiamo già parlato, di Pablo dedicato a Picasso, dell'adattamento di Zazie nel Metro di Queneau. Ma tornando al Suzanne Noël, appunto la donna pioniera della chirurgia plastica, femminista, viaggiatrice instancabile, di cui si racconta la storia in questo graphic novel, è una donna che ha attraversato alcuni dei momenti più drammatici e affascinanti del XX secolo, dalla Parigi delle avanguardie artistiche alle trincee della Prima Guerra Mondiale. Ma partiamo dall'inizio. Allora, quando si parla di fumetto, o meglio di graphic novel, spesso lo si immagina come un romanzo illustrato. In realtà, spiega Clément Aubry, il meccanismo è molto più simile a quello del cinema. C'è una sceneggiatura e poi c'è qualcuno che lo mette in scena attraverso le immagini, un dialogo continuo tra parola e disegno. E questo funziona davvero, nessuno dei due domina l'altro, si completano, e quanto dice proprio dell'opera A mani nude, in cui la fantasia ha dovuto creare appunto una serie di sequenze immaginando e colmando dei vuoti storici relativi alla biografia di Suzanne Noël. È il risultato un racconto visivo e narrativo che ricostruisce appunto la sua vita partendo da poche tracce storiche, perché Suzanne Noël è stata una figura reale ma sorprendentemente poco conosciuta. Allora vediamo di che si tratta. All'inizio del Novecento era una giovane donna borghese nella Parigi elegante e brillante di quegli anni. Avrebbe potuto vivere una vita tranquilla, moglie, madre, frequentare i salotti dell'alta società, e invece decide di intraprendere una strada molto diversa, studiare medicina, che già di per sé è una scelta rivoluzionaria in quell'epoca in cui alle donne si insegnava soprattutto la modestia e la discrezione di non chiedere troppo, non ambire troppo. Suzanne fa l'opposto, si specializza in un campo allora quasi inesistente, la chirurgia plastica. Oggi siamo abituati a associare questa disciplina alla medicina estetica, al desiderio di restare giovani, migliorare il proprio aspetto, ma all'inizio del Novecento la chirurgia plastica nasce per un motivo completamente diverso e tragico: la Prima Guerra Mondiale. Qui arrivano armi mai viste prima, esplosioni, schegge, devastazioni. Migliaia di soldati sopravvivono al conflitto con il volto sfigurato, ferite impossibili da trattare con le conoscenze mediche dell'epoca. E proprio davanti a queste ferite nasce una nuova medicina. Suzanne Noël e i suoi colleghi si trovano davanti a una generazione di corpi distrutti dalla guerra, volti che non sono più riconoscibili, persone che sopravvivono ma che non riescono più a vivere. Ecco che la chirurgia plastica diventa una missione quasi, restituire identità, dignità, possibilità di tornare nel mondo. Ed è impressionante immaginare come avvenivano le operazioni in quegli anni. Le fotografie dell'epoca mostrano sale operatorie affollate, decine di persone intorno al tavolo chirurgico, medici, studenti, osservatori, senza le rigide norme igieniche che oggi diamo per scontate. Sembrano quasi scene teatrali, quadri. E in mezzo a quel mondo dominato dagli uomini c'è una donna che sceglie di stare dove scorrono sangue e dolore. Una donna che entra in sala operatoria quando la maggior parte delle sue contemporanee era richiesto soltanto di restare in salotto. Ma Suzanne Noël non è solo una pioniera della medicina, è anche una donna piena di contraddizioni, libera, difficile da incasellare. Non è la classica militante suffragetta con i cliché che spesso immaginiamo. Il suo femminismo è pratico, concreto. Crede che aiutare le donne a sentirsi bene nel proprio corpo possa dare loro più fiducia e libertà nella società. Secondo lei, la possibilità di cambiare il proprio aspetto non è solo vanità, può diventare uno strumento di emancipazione. Leila Slimani, l'autrice del testo, afferma: il corpo, in fondo, è sempre stato un territorio complesso. È attraverso il corpo che possiamo essere feriti, che proviamo dolore, ma è anche attraverso il corpo che sperimentiamo il desiderio, l'amore, l'incontro con gli altri. E per le donne questo rapporto è spesso ancora più complicato. Il corpo deve essere bello, desiderabile, ma allo stesso tempo protetto, difeso, controllabile. È proprio questa l'ambiguità che affascina la scrittrice Leila Slimani. Il corpo come luogo di vulnerabilità e di potere, di fragilità e libertà nello stesso tempo. E la vita di Suzanne Noël sembra muoversi continuamente tra questi due poli. Lascia il marito, si innamora di un altro uomo, continua a studiare, operare, viaggiare. Frequenta artisti, attrici, personalità della Parigi culturale di quegli anni. Tra le sue pazienti ci sarà persino la leggendaria attrice Sarah Bernhardt. Nel frattempo il mondo cambia intorno a lei. La Parigi delle avanguardie artistiche convive con le tragedie del secolo, prima la guerra, poi un'altra ancora, la Seconda Guerra Mondiale. Suzanne non smette mai di muoversi. Negli ultimi anni della sua vita viaggia moltissimo, negli Stati Uniti, in Asia, in diversi paesi del mondo, porta la sua esperienza medica e il suo impegno sociale ovunque, perché la sua battaglia non è solo chirurgica, è anche politica e culturale. Lei crede che le donne debbano avere accesso al lavoro, all'indipendenza economica, alla libertà di costruire la propria vita. E forse è proprio questo il motivo per cui la sua storia è rimasta a lungo ai margini della memoria collettiva. La storia tende a ricordare le grandi scoperte scientifiche, i grandi nomi, pensiamo a figure come Marie Curie, ma alcune discipline, alcune battaglie sono state considerate meno nobili, meno importanti. Così Suzanne Noël, che pure ha contribuito a cambiare la medicina moderna, è stata lentamente dimenticata. Oggi però il fumetto, quella che spesso viene chiamata la nona arte, ha il potere di riportare alla luce la storia, una storia come la sua. A mani nude non è solo il ritratto di una dottoressa straordinaria, è anche il racconto di un'epoca, la Parigi d'inizio Novecento, i suoi caffè, i suoi artisti, le sue contraddizioni. E soprattutto è la storia di una donna che ha scelto di vivere pienamente la propria vita, fino alla fine. Suzanne Noël morirà nel 1954, dopo aver attraversato mezzo secolo di rivoluzioni scientifiche, sociali, culturali, ma soprattutto dopo aver dimostrato una cosa semplice e potentissima, che il coraggio di seguire il proprio talento può cambiare non solo la propria vita, ma anche quella degli altri. Donna che a 50 anni resta sola, i figli andati via uno ad uno, la casa vuota. A che serve svegliarsi al mattino, preparare il caffè? Ed anche tu sei vecchio in pensione, a che servi ormai? Almeno scorso la vita in casa lavoro. calcolato mai le ore di lavoro, sai. Non mi restava il tempo, neppure un momento, da dedicare un poco a me. Per me non c'erano feste, non era mai vacanza, neppure a Natale, mai. Tutto il sacrificio è una virtù. Per il bene dei miei figli mi son sacrificata, non ho mai chiesto niente più. Ed ora che sono da sola, qualche cosa farei. Ma è tardi e mi resta la voglia dei figli miei. Che hai fatto tu, dovremo vendicarla, sai. Il tuo lavoro ha un prezzo che a te non è pagato, è un costo tutto risparmiato. A te resta l'inganno, il mito della madre, chi ci guadagna il capitale. Ma le donne han capito che il nemico è, stanno già lottando. Stanno già lottando. La vita che hai fatto tu, dovremo vendicarla, sai. Il tuo lavoro ha un prezzo che a te non è pagato, è un costo tutto risparmiato. A te resta l'inganno, il mito della madre, chi ci guadagna il capitale. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.